Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi, cari ascoltatori e ascoltatrici. Ci ritroviamo per il nostro primo appuntamento del 2012 sotto la guida del Vangelo che ci accompagna lungo questo anno, il Vangelo di Marco. Il nostro programma, lo ricordo sempre all'inizio della trasmissione, ha come obiettivo quello di far dialogare la lettura della parola di Dio con la nostra vita. Quindi fin dall'inizio mi affido e vi affido allo Spirito Santo perché possa usare questo povero strumento che è la mia voce, la mia riflessione, per raggiungere con la sua forza i cuori di ciascuno di noi. Nella nostra lettura continua del secondo Vangelo siamo arrivati al capitolo 10. Invito quanti sono nella possibilità di farlo di prendere tra le mani un'edizione della Bibbia e di seguirmi passo passo durante questa trasmissione, seguire leggendo il testo della Bibbia. E questa è una modalità, ecco, che può rendere più fruttuoso, più efficace quanto ci diremo. Ricordo anche che la nostra trasmissione si regge su due grandi pilastri, due grandi momenti. Il primo momento è quello della mia riflessione sul testo, il secondo momento è quello delle vostre domande. Ecco, così come è concepita la trasmissione, do molta importanza alle vostre domande, cioè le vostre domande sono parte integrante della condivisione che facciamo attorno alla parola, perché anche chi spiega resta discepolo della parola nel momento in cui la illustra. Vi dicevo che stasera rifletteremo sul capitolo 10, esattamente sui versetti che vanno dall'1 fino al versetto 16 del capitolo 10. È un passaggio molto delicato del Vangelo di Marco, in quanto l'Evangelista tocca in questa pagina alcune questioni che riguardano la morale matrimoniale. Preciso che non è lo scopo della mia trasmissione entrare nei dettagli di quella che è la morale matrimoniale, ma cercherò di far emergere le questioni a partire dal contesto del primo secolo e di illustrarle dal punto di vista biblico, tenendo ovviamente presente il contesto sociale del tempo. Quindi vi invito, cari ascoltatori, a fare molta attenzione, ad essere molto prudenti nel trarre delle applicazioni immediate per la vita dei nostri giorni. Le applicazioni ci sono, ovviamente, ma vanno fatte con grande prudenza, per non arrivare a quelle che possono essere delle conclusioni affrettate. Ma entriamo subito in ascolto di questo testo. Cominciamo ad ascoltare i primi due versetti del capitolo 10. Partito di là, Gesù giunse nella regione della Giudea e al di là del Giordano. Di nuovo le folle gli venivano incontro e, come al solito, egli le ammaestrava. Avvicinandosi alcuni farisei, lo interrogavano mettendolo alla prova, per sapere se fosse lecito al marito sciogliere il vincolo con la moglie. Ecco, in questi primi due versetti tutto si apre all'insegna di un viaggio. È il grande viaggio di Gesù. Gesù si sta spostando dalla Galilea alla Giudea per arrivare come obiettivo nella città santa di Gerusalemme, dove il suo ministero pubblico giungerà a compimento con la sua passione, morte e risurrezione. Quindi è il grande viaggio nel Vangelo di Marco. Voi probabilmente sapete che i Vangeli sinottici, cioè Marco, Matteo, Luca, diversamente dall'Evangelista Giovanni, presentano, racchiudono, sintetizzano il ministero pubblico di Gesù come un ministero che si svolge nel nord dell'attuale Israele, cioè nella regione della Galilea, Poi c'è questo grande viaggio che porta Gesù a Gerusalemme, dove si conclude il suo ministero pubblico. Giovanni invece descriverà più volte questo viaggio da nord a sud nel ministero pubblico di Gesù. Quindi anche in Marco il viaggio è unico, e questo viaggio, come del resto le traversate del lago, ha una grande valenza simbolica. Non è solo un viaggio fisico che porta Gesù e i discepoli a Gerusalemme, ma è anche un viaggio interiore che porta questa comunità ad assumere con sempre maggior profondità quelle che sono le attese di Dio, quella che è la volontà di Dio, che si enucleerà ovviamente nel mistero pasquale. Lungo questo viaggio Gesù fa alcuni incontri, ognuno dei quali ha un messaggio preciso da comunicare. Il primo incontro è quello con i farisei, il secondo incontro è quello con alcune persone che portano a Gesù dei bambini, e sono un po' i due incontri su cui noi ci soffermeremo questa sera. Dopodiché incontrerà un uomo ricco, per infine chiudere il percorso con un ultimo incontro, quello con il cieco Bartimeo. Quindi sono quattro incontri, ognuno dei quali porta un messaggio al lettore, porta un messaggio all'interno della scena. Quando noi leggiamo il testo parallelo di Matteo, cioè lo stesso brano proclamato, registrato, narrato da Matteo, notiamo subito alcune differenze che mostrano ciò che sta particolarmente a cuore all'evangelista Marco, diversamente da Matteo. Allora, volevo leggervi questa introduzione così come viene narrata dall'evangelista Matteo. L'evangelista Matteo scrive: terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea al di là del Giordano. Molta gente lo seguì ed egli li guarì. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Allora, notiamo che tra le due narrazioni, quella di Matteo e quella di Marco, ci sono due sostanziali differenze. In Matteo Gesù ammaestra e guarisce, quindi Matteo sottolinea molto l'intervento miracoloso di Gesù sulle folle che lo seguono. In Marco invece Gesù si limita ad ammaestrare. Questa differenza è importante perché è un tratto tipico del secondo Vangelo. Il secondo Vangelo, pur avendo dato un certo ruolo nella prima parte della narrazione ai miracoli, nella seconda parte li fa quasi uscire totalmente di scena. Ciò che è importante oramai è l'adesione al Maestro di Galilea attraverso l'interiorizzazione del suo messaggio, attraverso l'approfondimento vitale della sua parola. La fede non deve essere forzata dal miracolo, ma deve essere un'acquisizione fatta dal discepolo, dal credente, attraverso il coinvolgimento della ragione e della vita. Questa è la prima sostanziale differenza. La seconda differenza sta nel quesito che viene posto dai farisei. Se in Marco i farisei pongono la domanda se fosse lecito al marito sciogliere il vincolo con la moglie, così dice il testo, in Matteo la domanda è diversa: è lecito un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? In altre parole, Matteo dà per scontato che sia già lecito il divorzio. Marco invece, e quindi interroga Gesù sui motivi che rendono possibile questo. Marco invece no. Marco fa porre una domanda che va ancora più alla radice. Cioè la domanda che viene posta a Gesù non è legata ai motivi che rendono possibile il divorzio, ma è legata alla scelta in sé. Cioè, è possibile o è meno possibile il divorzio? È lecito o non è lecito? Questo elemento è fondamentale. Se noi teniamo presente che il secondo Vangelo è il Vangelo più antico nella trasmissione della tradizione biblica, allora notiamo quanto l'unione tra un uomo e una donna nel contesto della comunità marciana fosse considerata veramente importante. Come su questo aspetto Gesù interviene con una radicalità che è inedita in altri passaggi della narrazione biblica o evangelica. Allora, vediamo un pochino il secondo momento di questa scena. Quindi, il primo momento descrive il viaggio di Gesù con la domanda che viene posta dai farisei. Il secondo momento risponde da una prima risposta ed è rappresentato dai versetti 3-4. Leggo. Egli però rispose loro: che cosa vi ha prescritto Mosè? Quelli allora replicarono: Mosè ha permesso di redigere il documento di ripudio e di sciogliere il vincolo con lei. Allora, notiamo che Gesù nella risposta al quesito sibillino che gli viene proposto dai farisei sposta l'attenzione. I discepoli, i farisei chiedono quello che è lecito, quello che è permesso. Gesù sposta, sbilancia la domanda chiedendo quello che è prescritto. A lui non gli interessa sapere ciò che è lecito o no, ciò che è permesso o no. Lui vuole sapere ciò che, stando alla legge di Mosè, è prescritto, cioè ha una valenza vincolante per l'ebreo osservante. Quindi la domanda che Gesù fa è: che cosa vi ha prescritto Mosè? E i farisei rispondono dicendo: Mosè ha permesso di redigere il documento di ripudio e di sciogliere il vincolo con lei. In altre parole, i farisei mettono davanti a Gesù una situazione dicendo: ma per Mosè non è questione se sia lecito o non lecito divorziare, lo dà per scontato. Mosè scrive che è opportuno redigere il documento di ripudio e sciogliere il vincolo con lei. A che cosa fanno riferimento questi farisei? I farisei fanno riferimento a un testo che troviamo nel Pentateuco, esattamente nel libro del Deuteronomio, al capitolo 24, dove nei primi 4 versetti viene affrontata proprio la questione del divorzio. Allora vorrei richiamare alla vostra mente proprio questi 4 versetti del libro del Deuteronomio. Deuteronomio 24:1-4. Così dice il testo: quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. Se ella, uscita dalla casa di lui, va e diventa moglie di un altro marito, e anche questi la prende in odio, scriva per lei un libello di ripudio, glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. O se quest'altro marito che l'aveva presa per moglie muore, il primo marito che l'aveva rinviata non potrà più riprenderla per moglie dopo che lei è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore. Tu non renderai colpevole di peccato la terra che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità. Ecco, i farisei fanno riferimento a questi 4 versetti del libro del Deuteronomio, dove Mosè prescrive di redigere questo libretto di ripudio, questo documento che attesta il divorzio dell'uomo, notate il protagonista, dell'uomo rispetto alla donna. Ecco, di fronte a questa risposta, Gesù al versetto 5 di Marco dice: Gesù disse loro: per la vostra durezza di cuore egli ha scritto questa prescrizione. L'interpretazione che Gesù dà di questa norma del Deuteronomio riporta le cose alla radice, perché fa capire ai farisei che questa norma non era una norma prescrittiva nei confronti del tema del divorzio, cioè l'obiettivo di questa norma non era quello di sancire il divorzio, la possibilità di divorziare tra un uomo e una donna, ma era piuttosto una norma che serviva per tutelare la figura femminile, la parte più debole della coppia, la donna. Perché questo? Perché nel contesto del primo secolo in cui viene presentata la domanda a Gesù, esistevano due scuole di pensiero nell'ebraismo del primo secolo. Una scuola era molto rigida e riteneva che il divorzio non era possibile, se non per una causa molto molto grave. Un'altra scuola di pensiero invece riteneva che l'uomo avesse comunque sempre il diritto di divorziare, anche quando, per dire, cioè proprio, viene proprio citata nelle fonti dell'ebraismo di allora questo esempio, anche quando la moglie ad esempio gli cucinava una pietanza scotta, bastava questo perché l'uomo arrabbiandosi potesse rimandare la moglie, rispedirla da dove era venuta, separarsi da lei. Oppure, quando un'altra norma, sempre del primo secolo, annotava rispetto a questa scuola, che quando la donna perdeva la propria bellezza, l'uomo la poteva respingere. Allora, di fronte alla durezza del cuore, Mosè ha prescritto di avere un documento, di concedere alla donna un documento. Perché? Perché se la donna non aveva un documento in mano e veniva respinta dal marito, era considerata come un'adultera, una donna poco di buono, e quindi non poteva più rifarsi una vita. Il fatto di avere un documento di ripudio in mano, il documento del divorzio in mano, permetteva invece alla donna di rifarsi una vita e comunque di avere un attestato che la assicurava sciolta dal vincolo precedente. Quindi era una norma che serviva per tutelare la figura femminile. Ecco perché Gesù reagisce alla risposta dei farisei richiamando l'origine della norma, dicendo: con questa norma non è che voi potete andare avanti a difendere quello che è la separazione o il divorzio all'interno del matrimonio, ma è per la vostra durezza di cuore che egli ha dovuto scrivere questa prescrizione, perché era l'unico modo nelle mani del popolo per tutelare la parte più debole, che in quel momento era la figura femminile. E allora notate come l'intervento di Gesù cominci a scretolare quella certezza che poteva esserci lungo il cammino nel cuore di alcuni discepoli, il fatto comunque di considerare l'uomo superiore alla donna e nello stesso tempo il fatto di poter considerare la donna una proprietà di cui impossessarsi o liberarsi in un momento o nell'altro in base al proprio piacimento, in base al proprio piacere o non piacere. Questo non è più possibile per chi si ritiene discepolo di Gesù. Ovviamente il testo va avanti, lasciamo ora un breve stacco musicale per dare a ciascuno di voi, cari lettori, la possibilità di rileggere un attimo questi versetti, dopodiché riprenderemo la narrazione marciana per vedere come Gesù continua ad andare in profondità e a portare quindi i suoi interlocutori più a fondo nella questione, per far capire perché il divorzio non è ammissibile in un discorso di discepolato con lui. Un breve stacco musicale. Continuando nella sua risposta ai farisei, Gesù, dopo aver detto per la vostra durezza di cuore, gli ha scritto questa prescrizione, continua nei versetti 6-9 precisando ulteriormente il suo pensiero, e dice: «Dal principio della creazione, maschio e femmina li creò. Per questo un uomo lascerà suo padre e la madre, e i due saranno una sola carne, così che non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi». Allora, notate, nella risposta che Gesù dà ai farisei non solo precisa che quella norma è dovuta intervenire a tutelare la parte più debole della coppia, ma aggiunge che non basta riferirsi a Mosè per capire qual è la linea più in sintonia con la volontà di Dio. Bisogna cercare di andare più a fondo e capire qual è il disegno originale di Dio. E il disegno originario di Dio non risale a Mosè, ma ci riporta in principio. E in principio la prima scena che vede coinvolte le creature umane è la scena della creazione. Dal principio, dice Gesù, maschio e femmina li creò. È interessante i termini che qui vengono utilizzati per indicare il maschio e la femmina, l'uomo e la donna, sono termini che hanno a che fare con la differenza sessuale delle due persone, la complementarità tra le due persone. Poi continua: per questo un uomo, e qui il termine utilizzato non è più quello che fa riferimento alla corporeità, ma è il concetto di antropos, cioè ogni uomo, ogni persona si potrebbe tradurre. Per questo ogni persona lascerà suo padre e la madre, e i due saranno una sola carne, così che non sono più due, ma una sola carne. Cioè, la sottolineatura che viene fatta da Gesù è che l'identità profonda di una persona nel suo percorso di vita sta proprio in questo, sta nel lasciare il suo ambiente d'origine, che è quello legato alla madre e al padre, per unirsi al suo elemento complementare, per il maschio alla femmina, cioè l'uomo alla donna, per la donna all'uomo. Ma questo vale per l'antropos, cioè per la persona in sé. Per Gesù il soggetto di questa scelta non può essere solo l'uomo, ma deve essere l'uomo e la donna. Guardate che per noi forse queste frasi potranno risultare un pochino fumose, un pochino astratte, ma per gli ascoltatori del primo secolo nell'intervento di Gesù c'è una novità esorbitante, perché per Gesù la prima volta la donna acquisisce un ruolo di primo piano, cioè la donna assume un ruolo decisionale pari a quello del marito, pari a quello dell'uomo, cosa che la domanda dei farisei non lasciano per nulla intendere. Ma c'è un ulteriore elemento che emerge da questa risposta, perché quando Gesù conclude dicendo «quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi», Gesù non fa altro che assorbire nella volontà di Dio quello che è il vincolo matrimoniale. E allora non è solo un patto umano sancito da un anziano, da uno scriba, da un sacerdote, è molto di più, è qualcosa che ha a che fare con Dio. E quindi nessun uomo lo può separare. Se nessun uomo lo può separare, vuol dire che neanche Mosè, uomo come tanti altri, ha il potere con la sua legislazione di imporre una prescrizione che porti allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Tanto vero che quello di Mosè viene ritenuta come qualcosa che rende lecito, che qualcosa che si può fare, ma non che è prescritto, è quello proprio che Gesù cerca di chiarire di fronte ai suoi interlocutori. Ed è interessante notare a questo punto l'ultima scena di questo primo incontro con i farisei, che è la scena che vede coinvolti i discepoli. I versetti 10-12 sono molto chiari in merito, ci viene detto: a casa i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. probabilmente non erano molto convinti ed erano rimasti stupiti della risposta che Gesù aveva dato. Ed egli disse loro: chiunque scioglie il vincolo con la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. E se lei scioglie il vincolo con il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Notate, i discepoli non sono convinti che la loro mentalità debba cambiare così tanto da non considerare più la donna come un possedimento nelle loro mani, e sciogliendo il vincolo quando vogliono. E Gesù interviene non solo ribadendo che il vincolo non può essere sciolto se visto nella volontà di Dio, ma sottolineando che il potere di sciogliere il vincolo, se la vogliamo dire tutta, non spetta solo all'uomo, ma spetta anche alla donna. Tanto vero che dice: chiunque scioglie il vincolo con la propria moglie, poi aggiunge: e se lei sciolto il vincolo con il marito ne sposa un altro, commette adulterio. Qua gli esegeti si interrogano dicendo: ma dove nel primo secolo era possibile a una donna sciogliere il vincolo con il marito? È possibile solo in alcuni strati di una società non giudaica, ma pagana. Allora, e dove sta portando il discorso di Gesù? Sta portando a un discorso di totale rilettura dell'antropologia umana, di totale parità tra l'uomo e la donna in quello che è il pensiero di Dio. In tal senso Marco, con il suo Vangelo, con la sua narrazione, si pone in perfetta sintonia con quello che è l'annuncio dell'Apostolo Paolo in una delle sue lettere, la lettera ai Galati. Se voi ricordate, nella lettera ai Galati Paolo, parlando alla comunità, dice che in Cristo non esistono più differenze, non c'è più schiavo né libero, non c'è più povero o ricco, non c'è più giudeo o greco, non c'è più uomo né donna. È in questa prospettiva che viene evidenziata questa sottolineatura, ed è curioso, se voi andate a leggere quando Paolo scrive ai Corinzi, una comunità dove il ruolo femminile ha assunto un impatto troppo forte sulla comunità rispetto a quello maschile, riprenderà tutti gli elementi, dirà che non c'è più giudeo e greco, dirà che non c'è più schiavo né libero, ma non dirà più l'ultima cosa, perché i ruoli si erano invertiti a tal punto da arrivare all'eccesso contrario. Quindi questo per dire che cosa? Che la sottolineatura che qua viene fatto nel contesto del divorzio, in una domanda specifica sul divorzio, presa da Gesù, accolta da Gesù, viene portata a una rilettura molto più profonda. Gesù prende una domanda sibillina e porta tutto alle origini della creazione e alle origini dell'identità dell'uomo e della donna, sottolineando che il compimento di ciascuno sta nel lasciare il proprio mondo, costituito dal padre e dalla madre, per costruirsene uno proprio, che è quello che viene costruito nella ricchezza data dalla differenza e dalla complementarità del proprio coniuge. Il verbo stesso utilizzato nel Vangelo di Marco per indicare l'unione tra l'uomo e la donna è un verbo significativo, perché è il verbo che viene utilizzato è syzeugnomi, che richiama il giogo, un giogo condiviso, dove la moglie è giogo, cioè peso del marito, e dove il marito è peso della moglie. Ricordate però sempre che il giogo nella tradizione neotestamentaria non ha solo il luogo di peso, ma è anche un dono che Dio fa per rendere feconda la vita di ciascuno. Se noi confrontiamo questa risposta o questa reazione dei discepoli, così come viene narrata in Marco, con quella che viene narrata in Matteo, abbiamo un'ulteriore conferma di quanto abbiamo detto, perché in Matteo la reazione dei discepoli è molto più forte. Narrando questo episodio, Matteo scrive, capitolo 19, versetto 10, gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, ma allora non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Ecco, questa reazione dei discepoli nel Vangelo di Matteo porta all'estremo la domanda dei discepoli nel Vangelo di Marco, cioè in Matteo i discepoli dicono chiaramente: non è possibile una posizione simile dell'uomo, cioè l'uomo perde la sua priorità così, allora non conviene sposarsi. E Gesù reagisce a questa modalità dei discepoli dicendo che il non sposarsi può avvenire solo in un caso, quando uno dedica tutte le sue energie per il regno dei cieli. Negli altri casi uno non si sposa, stando all'interpretazione ovviamente di Matteo, o per malattia, perché è nato così dal seno della madre, oppure perché è stato castrato, perché si è castrato. Ricordiamo, nel primo secolo esistevano anche delle forme di servizi e di prostituzioni varie che comportavano una vita non matrimoniale, che però era anche una vita sotto il segno della vergogna. Quindi l'unica possibilità, Gesù elenca tre motivi per cui non sposarsi, è che i primi due sono motivi di vergogna, solo il terzo, quello di una dedizione piena al regno dei cieli, è un motivo praticamente valido, che una persona può far propria, può guidare per sé. Ecco, questo per farvi capire come già il primo incontro nel viaggio che porta Gesù e i discepoli dalla Galilea alla Giudea tocca un elemento chiave, tocca la scelta di vita. Sulla scelta di vita bisogna essere chiari. Chi vuole essere discepolo di Gesù, prima di fare una scelta di vita per sé, deve avere molto chiaro il rispetto delle persone che gli stanno davanti. Nessuna persona può essere considerata oggetto nelle sue mani. L'uomo non può considerare la donna come sua proprietà, ma c'è una vocazione che tocca due identità, quella dell'uomo e della donna, e attraverso queste due identità fa nascere una storia nuova nei figli. E arriviamo quindi al secondo incontro, l'incontro con i bambini. Ecco, prima di ascoltare questi ultimi versetti su cui ci soffermeremo, lasciamo ancora uno stacco musicale, in modo che ognuno di noi può continuare a riflettere su quanto ascoltato e cominciare a formulare le domande per la seconda parte. Questo viaggio che porta Gesù dalla Galilea a Gerusalemme in Giudea, dopo l'incontro con il gruppo dei farisei che hanno come unico obiettivo quello di farlo cadere in tranello per avere un motivo di accusa contro di lui, ecco il secondo incontro, l'incontro con un gruppo di persone che gli presentano dei bambini. Allora ascoltiamo i versetti del capitolo 10, dal versetto 13 al versetto 16. Gli portavano dei bambini perché li toccasse. I discepoli però li sgridavano severamente. Vedendo ciò, Gesù si sdegnò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non impeditelo loro. Il regno dei cieli, infatti, appartiene a loro». In verità vi dico, se uno non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà. E abbracciandoli, li benediceva, imponendo loro le mani. Allora, questa scena, questo secondo incontro, è importante, significativo, per due motivi. Prima di tutto perché è strettamente collegato con l'incontro precedente. Nell'incontro precedente Gesù tutela il matrimonio, tutela la relazione tra l'uomo e la donna. In questo incontro Gesù tutela la figura dei bambini, che del matrimonio in qualche misura sono il frutto. Non solo, se nel primo incontro Gesù sviluppa un'argomentazione che lo porta a salvaguardare l'identità della donna di fronte all'uomo, perché la donna non sia ridotta a oggetto, a possesso dell'uomo, quindi la parte debole della coppia, nel secondo incontro, quello con le persone che gli presentano i bambini, Gesù tutela la parte più debole della famiglia. I bambini nel primo secolo non avevano certo tutte le attenzioni o le considerazioni che hanno nella società di oggi, erano considerati come comunque persone di, non dico di serie B, comunque in una scala sociale bassa, non avevano ancora un ruolo significativo nella società, non erano in grado di compiere delle scelte, erano considerati il più delle volte un elemento di disturbo di cui dovevano occuparsi di per sé le madri. Quindi i discepoli intervengono, secondo la mentalità del tempo, per tenere lontano i bambini. E anche questa volta Gesù interviene, e interviene in modo duro, perché se i discepoli sgridano severamente i bambini o chi presenta a Gesù i bambini, il verbo utilizzato, pensate, è lo stesso verbo che viene utilizzato nel contesto degli esorcismi per sgridare lo spirito impuro, quindi è un'azione veemente quella dei discepoli, altrettanto veemente è la reazione di Gesù, perché quello sdegno di Gesù indica una reazione molto forte che subito si traduce in un insegnamento preciso, su cui Gesù non ammette alcun sconto. A Gesù non interessa di avere dei discepoli che siano delle guardie del corpo. Gesù non ha bisogno delle guardie del corpo attorno a sé. Gesù si è incarnato per essere il segno dell'accoglienza di ogni creatura umana, qualunque classe, sesso o età appartenga, ogni persona deve poter trovare in lui accoglienza, e questa accoglienza si traduce in un imperativo rivolto ai discepoli: lasciate che i bambini vengano a me, non impeditelo loro, perché il regno di Dio appartiene a loro. In altre parole, o i discepoli si mettono in un atteggiamento di accoglienza o perdono l'appuntamento con il regno. Solo l'accoglienza dei più poveri, dei più piccoli, assicura il coinvolgimento nel regno. E questo mi permette anche di richiamare alla nostra mente un particolare che è tipico di Marco. Quando Marco parla dei paidia o del paidion, cioè del bambino, quello che noi traduciamo con bambino o bambini, non fa riferimento solo all'età cronologica, ma fa riferimento a tutta una tipologia di persone che erano considerate socialmente inferiori, fa riferimento soprattutto a coloro che compiono azioni di servizio o sono in una condizione di schiavitù. Tutte queste persone sono le persone che i discepoli devono accogliere, tanto più che subito precise, in verità vi dico, se uno non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà. Qua, ecco, le interpretazioni di questo come un bambino possono essere duplici. O possiamo intendere il bambino come soggetto, quindi chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, oppure come oggetto, chi non accoglie il regno di Dio come si accoglie un bambino. E in questo momento Gesù sta dando l'esempio, cioè gli sta abbracciando, e quindi sta dimostrando la modalità dell'accoglienza che si aspetta dai suoi. Oltre a questo ci sono due ulteriori gesti che acquistano molto significato, perché Gesù non si limita ad abbracciarli, l'abbraccio indica l'identificazione con la persona che viene abbracciata, quindi Gesù si identifica con la categoria dei piccoli, ma non si limita ad abbracciarli, viene detto che li benedice e impone loro le mani. Nel Vangelo di Marco è raro trovare l'immagine dell'imposizione delle mani. L'imposizione delle mani è un segno che istituisce, comunica dei poteri, comunica non solo il dire bene di Dio su questi bambini, ma comunica anche un potere, che è il potere della persona che impone le mani, in questo caso il potere del maestro. E la scena è paradossale, perché non è possibile che un maestro imponga le mani ai bambini infondendo in loro un'autorevolezza, un'autorità che i bambini non sono in grado di gestire, di ottenere. Ma il gesto è provocatorio, cioè ai discepoli che lo stanno seguendo per assumere in loro l'autorevolezza del loro maestro, Gesù dice che o cambiano registro, cambiano mentalità nell'accostare le persone, oppure i bambini li supereranno nel regno dei cieli, cioè saranno scelti loro al posto dei discepoli stessi. Quindi ci siamo confrontati, ci confrontiamo qui con due incontri che non sono per niente due incontri banali. In questi due incontri, quello con i farisei che pongono la questione sul matrimonio tra l'uomo e la donna e quello con le persone che gli presentano i bambini, Gesù sta sottolineando ai suoi discepoli che occorre nella via del discepolato entrare in un'altra mentalità, in una mentalità che sia in grado di cogliere il disegno di Dio nella sua visione originaria, dove l'uomo e la donna e la famiglia hanno un ruolo di primo piano, una mentalità in cui non ci sono delle classi sociali per dire la preziosità della persona, ma tutte le persone hanno la stessa dignità e la stessa preziosità davanti agli occhi di Dio. Ogni forma quindi di discriminazione, ogni forma di differenziazione legata al sesso, legata alla ricchezza di una persona, allo stato sociale, sono tutte cose che vengono lanciate, allontanate dalla via del discepolato. E quindi questa è la prima grossa sfida che interpella i dodici nel cammino che li porta dalla Galilea a Gerusalemme, dalla Galilea delle genti, dal mondo pagano a quello che è il mondo ebraico per eccellenza. E in tutto questo Gesù ha lanciato una pietra, se vogliamo, molto delicata e molto pericolosa per lui, per la sua vita, che è quella di cominciare a relativizzare la legge di Mosè. Portando a una nuova lettura di quello che Mosè ha prescritto, Gesù indirettamente ha fatto capire ai farisei che lo interrogavano che nessun uomo, e quindi neanche Mosè, ha il potere di sciogliere ciò che Dio ha stabilito fin dal principio, perché ciò che viene dal principio e che sta nell'armonia delle relazioni tra l'uomo e la donna è ciò che sta nel disegno divino, ed è questo a cui i discepoli si dovranno dedicare. Ecco, cari ascoltatori, le provocazioni che ci vengono da questa pagina del Vangelo di Marco. Vi ricordo, tutti questi versetti vanno ben contestualizzati, non possiamo trarre degli insegnamenti morali sic et simpliciter per noi subito oggi, ogni caso va sempre visto a sé, però i nuclei fondanti che stanno dietro queste questioni, queste sono validi per tutti, erano validi nel primo secolo, sono validi tutt'oggi e ci riportano al grande rispetto che deve esistere tra le persone umane. Lasciamo ora un altro spazio musicale in modo che ciascuno di voi possa poi presentare le domande che costituiscono la seconda parte importante della nostra trasmissione. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Con Ivano di Arezzo. Sì, Ivano. È molto interessante questa catechesi, questa, perché io sono d'accordo che vi do un po' a separare. Difatti io faccio anche catechismo ai bambini, ho iniziato con la Genesi, quando Dio tolse la cosa da Adamo e formò la donna, quindi diventarono una carne sola. Oggi si concretizza poi con il sacramento del matrimonio, quindi io penso che sia veramente... Mi dispiace che sia caduta la linea, probabilmente in alcune parti il cellulare di Ivano non prendeva bene, però Ivano ci ha aperto proprio questo squarcio sul testo della Genesi. Il testo della Genesi nella sua narrazione effettivamente contiene alcuni elementi preziosi per delineare quello che è il rapporto tra l'uomo e la donna, per delineare anche l'identità antropologica della persona. Ne evidenzio alcuni, di cui appunto riprendendo anche uno degli interventi che Ivano è riuscito a sottolineare. Il primo elemento che emerge nel racconto della Genesi è la prima cosa non buona che, se vogliamo, appare nel racconto della creazione. Se voi leggete i primi due capitoli, notate che ogni giorno della creazione Dio crea qualcosa e tutto termina dicendo e vide che era cosa buona, e vide che era cosa buona, finché arriva al momento della creazione dell'uomo. E in quel momento, nella creazione della prima coppia umana, la reazione di Dio è diversa, perché la sottolineatura del versetto dice: e Dio vide che era cosa molto buona, quindi indica già quella sottolineatura, una superiorità della creazione dell'umanità rispetto a tutti gli altri elementi della creazione. Però a un certo punto interviene sulla scena un'ombra. E la prima ombra che interviene sulla scena è: non è bene che l'uomo sia solo. La prima cosa non buona sulla scena della creazione non è l'entrata in scena del demonio, l'entrata in scena del serpente, meglio, ma piuttosto questa solitudine. La solitudine è un po' come uno spiraglio attraverso il quale poi lo spirito nemico può infiltrarsi. La prima cosa non buona sulla scena è proprio quella della solitudine. E quindi ecco l'edificazione, perché la modalità in cui viene descritta la creazione della donna nel secondo racconto della creazione è proprio paragonata a un'opera architettonica, no? Questa creazione che utilizza un linguaggio simbolico nel quale a partire da una costola viene edificato il corpo femminile. Ecco, questo elemento, questa immagine che sottolinea un elemento che forse al pensiero di alcuni oggi non piace, ma che nel testo biblico è così, ed è l'elemento della complementarità. L'uomo e la donna sono esseri che certamente stanno in piedi da soli, che però ecco, si completano l'uno con l'altro, nei tratti fisici, ma non solo nei tratti fisici, ma anche nelle caratteristiche tipiche della persona. Per chi è un po' più addentro all'uso anche della lingua ebraica, leggere questi primi due capitoli della Genesi è stupendo, perché gli stessi termini utilizzati nella lingua ebraica per indicare l'uomo e la donna sottolineano la complementarità di queste due persone e l'importanza della loro unione. Quindi grazie a Ivano, che al di là del fatto che il cellulare prendeva o meno, però ci ha aperto uno spiraglio di approfondimento prezioso per la nostra trasmissione. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Sì, io sono Irma e telefono da Cuneo. Mi dica, Irma. Allora, io le volevo porre una questione che mi gira in testa. Io sono una donna separata, io mi sono sposata in chiesa, non in civile, in chiesa. Poi sono stata lasciata da mio marito perché voleva un'altra vita, aveva altre donne, diciamo così. Ecco, e in primis io mi sono molto disperata, ho sofferto moltissimo, ma ho fatto un certo cammino. E mi sono detta, lui non mi amava più, io devo rispettare questa sua volontà e avere pietà di lui, e non potevo farlo stare con me non amandomi. E quindi, nonostante io lo ami ancora moltissimo, io ho verso di lui proprio pietà, l'ho perdonato, ma penso che non devo neanche io perdonarlo io, perché ci sarà chi lo perdona meglio di me. Però ho compreso che lui non era felice con me, perché dovevo obbligarlo a stare con me in vista di un qualcosa che, diciamo, era costretto. Nonostante io soffro ancora moltissimo, sono destinata a rimanere sola, anche se Dio ha detto che non è bene che l'uomo e la donna resti sola, però in questo momento è così. Io adesso vorrei proprio sapere se l'atteggiamento che ho assunto nei riguardi di mio marito è giusto o non è giusto. Allora, la ringrazio Irma per questo suo intervento che chiede una risposta molto delicata, ed è proprio a casi come il suo, a situazioni personali delicate come la sua, che facevo riferimento quando durante la trasmissione dicevo: attenzione ascoltatori, dobbiamo fare molta attenzione a prendere questi testi e ad applicarli sì che simpliciter sulla nostra vita, perché ogni situazione va accolta con grande delicatezza e grande rispetto. Mi sembra, cara Irma, che da quel poco ovviamente che posso conoscere da questo tuo intervento, mi sembra che il tuo atteggiamento sia corretto, molto corretto. Una relazione non può reggersi sulla costrizione, una relazione caratterizzata dalla dimensione della libertà, e quindi non si può tenere legati a sé una persona quando per i motivi più diversi questa persona è decisa in ogni caso a non portare avanti la relazione. Mi sembra però molto significativo quello che lei ha detto, no? Lei ha sottolineato che soffre per questo, quindi crede molto comunque al significato che il sacramento ha avuto nella sua vita e soprattutto al significato di ciò che ha costruito nella sua relazione d'amore con suo marito, non solo quando era fidanzati, ma anche dopo. Crede a questo e quindi ci soffre. Ha parlato di perdono. Il perdono non annulla ovviamente la sofferenza, però indica un aspetto di disponibilità comunque all'accoglienza nei confronti dell'altro, e ha sottolineato che comunque lei lo ama ancora molto, cioè nonostante tutto crede fortemente alla relazione d'amore che c'è stata tra di voi. Quindi in questo caso il discorso della separazione, prima di tutto bisogna distinguere, la separazione ovviamente è diversa, è una cosa diversa dal divorzio, dallo scioglimento del vincolo volontario, ma in questo caso ecco la separazione è in un certo senso stata imposta, non era possibile, ci sono anche altre situazioni ovviamente in cui non sono possibili altre vie se non quella della separazione. Ed è la situazione che permette di rispettare nel maggior modo possibile le parti in causa. Ecco, mi sembra che bisogna tenere presente tutte queste cose. Ovviamente per un discorso più approfondito ogni persona deve confrontarsi con chi è più addentro alla propria storia personale, quindi al pastore della comunità cristiana o a una figura di riferimento, un religioso, una religiosa, un laico di fede che può essere guida, no, nel cammino e ottimo punto di confronto. Però mi sembra che la testimonianza che ci è stata data dalla nostra Irma di Cuneo sia una testimonianza positiva per tutti. In alcune situazioni la vita va a sbattere contro dei muri dolorosi e di fronte a situazioni come queste l'importante è reagire nel modo giusto, una reazione che tiene conto il rispetto, il perdono, la perseveranza nell'amore e nell'accoglienza, mi sembra che sia da tutti i punti di vista una reazione profondamente cristiana. Grazie Irma per la tua testimonianza. Sì. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Don Giacomo? Sì. Con chi parlo? Ecco, io sono Antonio, sto chiamando, sono in viaggio, sono col camion, faccio il camionista. Sì. Io volevo porre una domanda riguardo anche una mia situazione personale, riguardo una separazione. Una separazione vera e propria non direi, perché non ero sposato, convivevo con questa donna, abbiamo avuto anche dei figli, di cui tre figli, alla fine ha deciso di andare farsi la sua vita con un'altra persona, ma che alla fine non ha fatto niente. In ogni caso, senza raccontare tutto quello che è il dramma, questa caduta che c'è stata nella mia unione, ho tentato unione in cui magari forse avrei arrivato più là al matrimonio, perché anche è vero che oggi sono stato illuminato da Dio in una situazione forse di caduta nella mia vita, e devo dire grazie anche a Radio Maria che mi ha aiutato tanto a capire un po' cos'è la verità. Io mi chiedo questo, visto che non ero sposato, in ogni caso i figli sto facendo fronte a tutto, in cui uno vive con me, gli altri due purtroppo li vedo raramente dovuta alla distanza che li ha portati via, quindi mi chiedevo questo, ma io posso ancora sposarmi, posso ancora pretendere di poter affrontare quel principio, quei valori che ho avuto sempre imbattiti dalla mia famiglia, essere una carne sola, ecco la spiegazione di stasera. Volevo capire se ancora, nonostante il peccato al di fuori del matrimonio, che oggi ho capito, che mi ritrovo aver fatto dei figli al di fuori dal matrimonio, diciamo che ero nell'ignoranza, oggi posso anche ammettere il mio peccato e chiedere perdono, però anche questo a volte mi dà il dubbio se io ancora riesco a entrare nel principio di Dio. Ecco, volevo questa spiegazione, se io ancora posso fare fronte a una nuova situazione, cioè a una nuova unione, nonostante che ci sono già dei figli di mezzo. La ringrazio Antonio per questo suo intervento. Un'altra situazione di complessità, di fronte alle quali le risposte devono essere molto, molto ponderate, molto delicate. Vedete come fin dal primo secolo la situazione del rapporto tra l'uomo e la donna sullo sfondo del matrimonio solleva questioni delicate, situazioni da affrontare con tanta prudenza. E ovviamente quanto ci presenta il nostro ascoltatore, sintetizzato, noi potremmo dire ha convissuto con una donna, da questa donna ha avuto dei figli, la domanda è se io adesso volessi sposarmi, potrei sposarmi oppure no? La risposta è difficile a questa domanda. Prima di tutto il primo suggerimento è che nel momento in cui all'interno di una relazione di coppia nascono dei figli, non esiste più solo la responsabilità nei confronti di una persona, del proprio partner. Esiste una responsabilità nei confronti delle creature che sono nate e che comunque portano dentro di sé, nel proprio DNA, tutti gli elementi che caratterizzano l'unità, la complementarità tra l'uomo e la donna che è madre di questi bambini, di questi figli. Quindi il primo suggerimento, la prima indicazione che personalmente darei, con tutti i limiti del parere ovviamente personale, è quello di dedicarsi alla famiglia, dedicarsi ai figli, senza andare a cercare nuove situazioni. Tuttavia so che questa mia risposta non può essere considerata definitiva, per un semplice motivo: io non conosco la storia sua di Antonio, cioè non conosco la sua storia nel dettaglio. Quindi da questo punto di vista penso che una risposta adeguata, corretta, le potrebbe venire solo da una persona che conosce a fondo tutta la vicenda. Ecco, anche la fede cristiana, è vero che a volte si fanno delle scelte che poi in un contesto di conversione, di avvicinamento alla fede o di ritrovamento della fede, si impara a leggere in modo diverso e quindi portano a reimpostare la propria vita per poi fare delle scelte successive che magari 5 o 10 anni prima non erano nemmeno pensabili, no? Ecco, sulla qualità, sulla validità, sulla possibilità di queste scelte è necessario la guida di una persona saggia che conosca da vicino la situazione. Ecco, quella che è la mia risposta alla situazione che mi è stata proposta è, per gli elementi che conosco, è dedicarsi ai figli prima di pensare a qualcosa, a un'altra forma di unione, anche se di per sé questa non dovrebbe nemmeno essere esclusa, però ecco, è importante che ci sia a dare una risposta una persona che conosca a fondo la situazione. Grazie Antonio per questa tua situazione di vita che hai condiviso con tutti noi. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, pronto, buonasera, sono Luca, chiamo da Roma. Avevo una domanda, perché proprio sull'argomento. Allora, dato che io, a mio avviso, Gesù ha l'insegnamento che ha portato nei confronti della donna, nei confronti dell'uomo e della unione, ma anche così dei bambini, era avveniristico, non solo perché rompeva quella che era la legge, o comunque modificava la legge che era stata data da Mosè, quindi non solo un trauma tra virgolette per i tempi in cui lui era, ma anche nei secoli futuri, si può dire anche nei giorni nostri, è avveniristico. Perché poi, con lo sviluppo di quella che è la democrazia e quindi i diritti delle persone, si è vista sempre più la figura soprattutto della donna, ma anche dell'uomo, come concorrenti, come il femminismo, il maschilismo, oppure viene interpretata la visione della libertà come un libertismo, quindi avere una visione degradante alla fine dei conti della figura femminile, maschile o anche della coppia, della famiglia come ai giorni nostri. Grazie Luca per questa domanda, una domanda molto interessante che tocca un nucleo di fondo, no? Come mai, se Gesù porta un insegnamento così rivoluzionario per il contesto del tempo, e se così anche tutto era stato impostato fin dalle origini dell'Antico Testamento, poi non siamo stati all'altezza di questa eredità? Le risposte possono essere due, dipende se mi baso sul testo dell'Antico Testamento o su quello del Nuovo. Se mi baso sul testo dell'Antico Testamento, la risposta è il principe del male, cioè dietro il regresso su idee, su concetti così importanti nella relazione tra l'uomo e la donna, c'è l'intervento dello spirito del male. Se voi andate a leggere il capitolo 3 della Genesi, dove viene descritto il peccato delle origini e lo squilibrio che questo peccato porta nel discorso stesso di Dio che lancia alla donna, notiamo che i ruoli praticamente dell'uomo e della donna, che erano dei ruoli di complementarità, vengono praticamente sconquassati, rovinati. Tanto vero che nel discorso che Dio fa dopo il peccato alla donna e all'uomo, utilizza dei termini molto forti. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. Notate, la donna che veniva descritta con gli elementi dell'accoglienza diventa al contrario una persona che il peccato porta ad essere spinta dall'istinto, e l'uomo che dovrebbe accogliere la donna diventa invece luogo del dominio. E lo stesso verrà detto all'uomo, perché all'uomo dice: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo, eccetera, per tutti i giorni della tua vita. Cioè l'elemento assente dell'uomo nel peccato delle origini è stato quello di mancare nella tutela della donna. Nel momento del frutto da prendere dell'albero, l'uomo non ha detto una parola, non ha fatto nessun gesto, cioè è venuto meno in quello spirito di iniziativa che fin dall'inizio lo caratterizzava e che caratterizza l'uomo, l'identità dell'uomo in quanto uomo, in quanto maschio, lo spirito di iniziativa, lo spirito di costruzione. È stato l'opposto nel momento del peccato, è stato la figura passiva. Quindi, perché non siamo in grado di far nostra un'eredità così forte, stando al racconto della Genesi, non siamo in grado di far nostra un'eredità così forte perché cediamo al principe, allo spirito nemico, al principe del male, a Satana. Quindi gli attacchi alla famiglia che ci sono oggi, gli attacchi all'identità di genere che caratterizzano purtroppo il mondo contemporaneo, non hanno a che fare solo con idee razionali, posizioni politiche, azioni sociali, dietro c'è qualcosa di più, dietro c'è qualcosa di più che va a minare i fondamenti dell'identità umana. E so che dicendo questo dico qualcosa di grosso, cioè attribuire allo spirito del male tutto questo, ma è così. Stando alla lettura che viene dalle prime pagine della Bibbia. Un'altra lettura però viene anche dal Nuovo Testamento. Perché dico dal Nuovo Testamento? Se noi prendiamo l'insegnamento di Gesù nei Vangeli e l'insegnamento di Paolo nelle sue lettere, quindi quelli che sono gli scritti più antichi della tradizione cristiana, notiamo che uno degli elementi rivoluzionari è proprio il ruolo della donna. Paolo viene spesso considerato come un antifemminista, invece avviene proprio il contrario nelle lettere che appartengono alla sua, che sono sicuramente nate da lui. Cioè Paolo dà ruoli di responsabilità alle donne nelle comunità, Paolo affida degli incarichi addirittura di guida delle chiese domestiche, di coordinare delle missioni delicate come la missione a Roma e così via. Le donne hanno un ruolo chiave, non solo le donne, le coppie hanno un ruolo chiave nel ministero di Paolo, e questo lo stesso vale per Gesù. Quello che notiamo è che nella terza generazione cristiana, e che in qualche modo possiamo anche vedere un po' riflessa nelle lettere deuteropaoline, cioè quelle che nascono nella scuola di Paolo ma che non sono state scritte da lui, notiamo che ci sono dei passi indietro. Probabilmente il fatto di trovarsi in contesti molto caratterizzati da alcune linee di pensiero, in società molto caratterizzate da un pensiero comunque patriarcale, hanno a un certo punto obbligato, condizionato le comunità delle origini a fare dei passi indietro, perdendo quegli elementi di punta del pensiero cristiano che caratterizzavano le origini. Del resto lo sappiamo quanto tempo comunque lungo la storia ci è voluto anche per le comunità cristiane più vicino a noi per recuperare queste dimensioni. ma una volta che su queste dimensioni abbiamo cominciato a ritrovare il pensiero delle origini, a risalire al pensiero biblico, teologico nella sua profondità, ecco, il riequilibrio di tutti questi aspetti è riemerso. Noi dobbiamo dire grazie in modo molto forte per quanto riguarda il pensiero nella catechesi comune a Giovanni Paolo II. Le catechesi di Giovanni Paolo II sulla corporeità, sulla figura dell'uomo e della donna, sul ruolo della donna nella Chiesa continuano oggi ad essere di grande attualità. È una grande sfida, non solo per le comunità cristiane, ma per le stesse comunità religiose, dove la figura della suora e della donna consacrata a volte non ha il ruolo e il rispetto che meriterebbe. Grazie Luca per questa domanda, perché hai toccato veramente uno degli elementi vitali della riflessione di stasera. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, io sono Manola e ti chiamo da Mornago, provincia di Varese. Sì, mi dica. Senta, io ho ascoltato la sua catechesi, è stata molto interessante, però io niente, io sono sposata da 12 anni e purtroppo io per il fatto che sono cardiopatica non posso avere figli. Volevo farle una domanda, questo ruolo che io ho in questa famiglia, diciamo, che siamo io e mio marito, essendo che non abbiamo figli, cioè comporta qualcosa, nel senso che il Signore, non so neanche come fargli da questa domanda, nel senso che essendo che io non posso avere figli, io ne soffro molto, ecco, la donna rigenera, io purtroppo non posso generare, e quindi con questa cosa io soffro molto e penso che il Signore è come se fosse un mio castigo, una mia cosa, cioè come se il Signore mi ha detto ok, in tutte le altre donne del genere no, tu no, quindi è come se io me lo sento come un castigo, come una cosa fatta male. Ho capito. Ti ringrazio per aver condiviso con noi questo aspetto della tua vita, che sicuramente non è facile da condividere, e quindi è un dono che tu fai a tutti noi che ascoltiamo. Ti vorrei dire una cosa, spero di dirtela nel modo più delicato possibile. Il pensare che quello che stai vivendo sia un castigo di Dio è il pericolo più grosso a cui in questo momento sei esposta, la tentazione più grossa che lo spirito nemico insinua nel tuo cuore. Il generare fisicamente dei figli è ovvio che è uno delle vie in cui si compie il matrimonio. Ma quando questo non accade non lo dobbiamo prendere come un castigo. I figli sono comunque un dono che concretizza una delle vie in cui un matrimonio può compiersi. Ma la generatività non si riduce nel partorire, nel crescere dei figli. La generatività di una coppia, la fecondità di una coppia, si manifesta anche in tante altre forme, dove la tua maternità, la paternità di tuo marito possono esprimersi, e non faccio riferimento solo all'adozione o all'affidamento, ma anche a tante altre varianti in cui una coppia può trovare comunque il suo spazio di generatività. Ovviamente accanto a questo c'è tutto un altro percorso che ogni coppia deve fare con la parte più umana, cioè la parte legata alla medicina. È chiaro che accanto a questo bisogna chiedere anche l'ausilio della medicina, ma su questo sono convinto che tu hai già fatto tutti i tuoi passi. Ciò che mi preme sottolineare è questo: non considerare questa situazione come un castigo divino. Nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo molte erano le figure femminili che consideravano la propria impossibilità a generare come un castigo che proveniva da Dio, e più volte Dio si è fatto presente sulla scena per ribadire che le cose non stavano così, che la volontà di Dio era altra e sovente si è manifestata come una realtà feconda da un altro punto di vista. In altri casi invece era solo il caso di un Dio che invitava ad aspettare per creare la situazione giusta per affidare quel figlio a una determinata coppia. Insomma, ogni coppia deve imparare a sintonizzarsi con quelli che sono i tempi e le volontà di Dio, per quanto a volte queste possano essere austere. Io so che in ascolto ci sono anche alcune coppie che da anni stanno cercando di avere un figlio, che mi hanno chiesto di accompagnarle anche nella preghiera per chiedere questo dono, ed è un dono che invoco insieme a loro, nella coscienza però che i figli sono un dono, che non ce li diamo noi, e a volte l'attesa, il non poter avere, il dover esprimere la propria paternità o maternità in altro modo, ci ricorda che il dono che viene da Dio è molto più grande di noi, delle nostre prestazioni o prestanze, e ha a che fare con il mistero della vita. Grazie per aver condiviso questa tua pagina di storia personale. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, vorrei rimanere anonima. Sì. Da tempo che cerco di chiamare, però non ho mai provato. Ora questa sera però ho acceso la radio, già era iniziata la catechesi, già c'erano le telefonate. Niente, io volevo dire, non so se è l'argomento giusto. Siccome ero fidanzata, sono stata fidanzata per 13 anni, e quando già si stava arrivando al matrimonio, lui mi ha lasciato. E ora mi ritrovo così in un mondo, perché è una vita di aspettare questo grande sogno che non si è realizzato, e mi sento in un tunnel, anche se prego, non ho perso la fede, perché anzi mi ha dato tanto aiuto, continuo a pregare per riuscire a superare questa, perché mi sento come entrata in un tunnel e non trovo la via di uscita, vedo tutto tenebre, non riesco a vedere luce, e a volte dico perché, proprio a me, perché, che cosa ho fatto per aver meritato tutto questo. Grazie a questa nostra ascoltatrice che ci presenta un altro caso delicato, 13 anni di vita insieme che a un certo punto sembrano andare in fumo. E non solo vanno in fumo quei 13 anni, ma la nostra ascoltatrice si trova in una situazione che viene paragonata a un tunnel di cui non si vede la via di uscita. Sono immagini che ci aiutano un pochino a entrare nel mondo di questa ragazza che ci ha chiamati. Allora, cosa possiamo dire? Prima di tutto, su questi 13 anni bisogna dire che è ovvio, in 13 anni tante cose si costruiscono, si sognano, si progettano. E quando tutto viene infranto, la prima reazione è quella di pensare che sono stati buttati via 13 anni e ci si lascia avvolgere dal dolore. Il primo suggerimento che ti darei è proprio questo, no? di non considerare questi 13 anni come 13 anni totalmente persi. Sicuramente, senza nulla togliere al dolore che stai vivendo, che sicuramente è grande, forte, sicuramente in questi 13 anni tante cose anche ti hanno permesso di crescere, di maturare, di affinare le tue qualità. Quindi non buttare via, non considerare tutto come finito. C'è una parte, anche se questo ti porta dolore, ma c'è una parte di questi 13 anni che ha contribuito a renderti quello che tu sei, nelle tue parti più belle, più significative, più qualitative. Il secondo aspetto è quello del tunnel. Ovviamente c'è una prima fase di tunnel che bisogna passare, perché appunto non si può annullare una relazione d'amore così lunga con un colpo di spugna, no? Nello stesso tempo però la vita è anche davanti a te, non è solo dietro di te. Questo lasciarti troppo schiacciare dal dolore, stai attenta a non far sì che questo dolore non sia, come dire, il modo estremo, lo strumento estremo, lo strumento della disperazione per rimanere attaccata a qualcuno che ti ha lasciata. Non restare attaccata pur nel dolore a colui che ha voluto fare un'altra scelta. Volgi il tuo sguardo in avanti e cerca di capire che c'è una vita che ti sta davanti e che devi costruire per non lasciare sì che l'incubo di una scelta che ti ha fatto male rovini anche gli anni che ti stanno davanti. E sono certo, cara ascoltatrice, che il buon Dio ti è vicino. Tutta la tua vita negli orizzonti dei tuoi anni a 360 gradi non può in tutti gli aspetti essere totalmente legata esclusivamente alla persona che ti ha lasciato. Non sarebbe equilibrato, non sarebbe corretto. Riprenditi in mano per quello che tu sei, per quello che questi 13 anni ti hanno insegnato e guarda avanti. Ecco, nel mio piccolo chiederò proprio questa sera, nella preghiera che chiude la giornata, una particolare benedizione per te, perché il peso dell'esperienza che hai vissuto non schiacci la bellezza degli anni che ti stanno davanti. Grazie del tuo intervento. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, Don Giacomo? Sì, sono io. Mi dica. Salve, io mi chiamo Michele e chiamo da Foggia. Bene. Io ho avuto un lungo fidanzamento, proprio come questa signora che ha chiamato un attimo fa. E poi sì. Mi sono sposata in chiesa e ho sognato questo matrimonio, però mi è andato male subito, cioè abbiamo avuto 13 anni di matrimonio, ma mio marito è stato violento da subito, non ha condiviso diciamo tutto ciò che può essere condannato in un matrimonio, aveva altre idee, altri pensieri, ha avuto altre donne e poi alla fine... Io sono stata seguita, ho fatto un cammino neocatecumenale nel frattempo perché stavo male, chiaramente ho vissuto con disperazione questi anni e poi alla fine un padre missionario che mi seguiva ha detto che insomma non potevamo vivere avendo avuto due figlie senza dignità in questa maniera perché era una trincea notte e giorno. E io a malincuore, mio malgrado, sapevo che ormai avevo capito che non ci voleva più stare qui con noi e lo tenevo, come dire, legato a noi con le catene in un certo senso, diciamo così. Non lo obbligavo, però facevo in modo in maniera che restasse. Ho aperto la mano e l'ho lasciato andare, non l'ho mai più rivisto. È chiaro che all'inizio mi sono, come dire, provenivo già da un grande dolore, un matrimonio vissuto così. E mi sono un po' ripiegata in me stessa perché ero stanca e ho detto questo martirio a che cosa è servito, sono stata io in questa situazione e ho messo al mondo due figli, mi sentivo anche un po' in colpa, diciamo, un martirio che insomma hanno subito anche loro, chiaramente per gli spaventi che prendevano di questo padre che picchiava la madre, insomma non è stato facile, ci ho messo così qualche anno e poi piano piano, poiché ho sempre avuto il Signore vicino, si è manifestato in tante maniere, la preghiera non l'ho mai abbandonata, per grazia sua chiaramente, nessun merito mio. Sì, niente, la domanda è che in pratica molte volte mi hanno detto di annullare il matrimonio, che c'erano tutte, però io non ho mai sentito insomma di fare una cosa del genere, non... per quanto non mi sia mi sono stata capace, perché lui ormai ha un'altra donna, aspetta un altro bambino che nascerà tra un mese e quindi so che non ritornerà più indietro niente, non ho più aspettative e per non morire nel dolore ho chiesto al Signore di farmi capire cosa potevo fare e aiuto le persone quando vedo che i matrimoni sono in crisi, diciamo, ho cercato di far di utilizzare questo mio dolore profondo, no? E devo dire, qualche volta, insomma, con l'aiuto di Dio, queste cose semino e il Signore poi raccoglie, perché va in porto. Cara Michela, anche questa testimonianza è preziosa per tutti noi che ascoltiamo, no? E tu metti sul tavolo un'altra questione delicata, che è quella della violenza, no? All'interno di un rapporto di coppia. Abbiamo sentito intervenire Gesù. Gesù interviene proprio per tutelare la parte più debole, ed è ovvio che in casi come questi la parte da tutelare è quella più debole, quella verso cui viene esposta la violenza. Si possono fare tutti i cammini per cercare di risolvere questa cosa, umani, religiosi, ma se il problema della violenza in casa non si risolve, l'unica via è proprio quella della separazione, tanto più che la parte esposta, in questo caso lei o la figura femminile, in genere è sempre la figura femminile quella che subisce la violenza, ha una doppia violenza, fisica da un lato, ma anche psicologica dall'altro, perché c'è quello che lei ha chiamato il senso di colpa. Alla fine, paradossalmente, la parte che è oggetto di violenza si sente pure in colpa, per come se non sia stata in grado di portare avanti un vincolo importante come quello del matrimonio. Ecco, mi sembra però che il Signore l'abbia guidata a fare le scelte giuste. Da un lato la scelta di lasciarsi accompagnare da una comunità con cui vivere un cammino di fede, in questo caso la comunità neocatecumenale, dall'altra farsi guidare da una guida, è un missionario, e poi quella di cercare di guarire un cuore comunque ferito dalla violenza e probabilmente anche dal rancore in alcuni momenti attraverso gesti di gratuità. Mi sembra che questa sia delle modalità di risposta e di reazione positiva a quanto lei ha subito. Spero tanto e affido al Signore che i figli che hanno vissuto tutto questo con voi, da questa vostra storia e soprattutto dalla sua reazione, imparino la grandezza della dignità di una persona e quanto a volte l'amore possa essere esigente, ma non per questo cancellato nella vita di tutti i giorni. Grazie anche a te, Michela, per questa tua testimonianza. Ecco, con questo intervento noi abbiamo terminato la nostra puntata. Ringrazio a tutti coloro che sono intervenuti con le loro domande. Avete visto quanto fossero delicate le situazioni stasera, e noi ci diamo appuntamento al mese prossimo. Una benedizione a tutti voi, restiamo uniti nella preghiera, lasciandoci guidare dal Signore e da Maria sua madre. Grazie a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.